3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'Incredulo con Elisa, quella che vorrebbe tanto convincere Giorgio l'Incredulo. Buongiorno Giorgio! Ah, io non sono così facile da imbambolare con questi discorsi da santoni, da guru, da New Age, però c'è allo stesso tempo da dire che Elisa si presenta come una persona molto quadrata e che sa di quello che parla, non si presenta come una persona, ho avuto anche modo di incontrarla personalmente di recente, come una persona che è serissima in quello che dice e in quello che fa. Quindi, pur rimanendo incredulo sopra queste bizzarrie dell'esistenza o degli interessi umani, tuttavia è forse preferibile se ascolto un pochino di più quello che Elisa mi dice. Un saluto agli ascoltatori di Radio Big World che mi auguro siano meno increduli di me e siano un attimino più aperti a quelle che sono le informazioni che escono dal mainstream, come usa dire oggi. Elisa, oggi di che mi parlerai? Di che ci parlerai? Di un'altra Spezia. Continuiamo il nostro giro nell'Oriente speziato e oggi parleremo dello zenzero. Lo zenzero, ma che cos'è lo zenzero? Come è fatto? È quella radicina strana, brutta che a volte si trova nei supermercati? Esatto, è una radice, come era la curcuma, più o meno, insomma, un tubero, un radicioso. Ha delle potenzialità, diciamo, quasi miracolose, perché è stato da studi scientifici comparato ai più comuni antidolorifici come l'ibuprofene e il cortisone. Viene usato nella medicina ayurvedica da diversi millenni, è molto più efficace dell'ibuprofene. Ha la stessa efficacia invece del cortisone, solo che non ha effetti collaterali degli farmaci chimici e quindi sarebbe molto molto meglio di tutte queste pasticcone che ci prendiamo appena abbiamo il minimo dolorino o la minima influenza. Incredibile, Elisa, ma come? Quelle medicine che ci danno i dottori con il camice bianco che si va in farmacia, il farmacista molto pomposamente va a prenderle, sembra che ci dia la salvezza, in realtà quegli stessi principi attivi o quelle stesse funzionalità delle sostanze contenute dentro a queste medicine, in realtà le si trovano banalmente in una radice che oltretutto non fa male. Esatto, perché lo zenzero contiene dei composti in grado di inibire la produzione di citochine, che sono le molecole che causano l'infiammazione e quindi il dolore. Questa capacità curativa è assente nell'ibuprofene, mentre è presente nel cortisone, quindi ha un effetto, diciamo, di antidolorifico. E lo zenzero è anche migliore del cortisone perché questo può causare gonfione, debolezza muscolare, aritmia cardiaca, pressione alta, ansia e problemi di insonnia, cosa che lo zenzero non fa. Ma pensate, un dottore anni fa mi disse: sai, la più grande scoperta in medicina e in farmacologia degli ultimi 30 anni, e lui sosteneva che fosse anche l'unica, era stata proprio il cortisone. E qui si viene a scoprire che invece quelle stesse proprietà, anzi maggiorate, si ritrovano nella radice dello zenzero. Incredibile, incredibile. Ma come si fa a beneficiare delle potenzialità e delle caratteristiche che ha questo zenzero? Allora, lo zenzero andrebbe preferibilmente consumato fresco. So che è un po' una rottura di scatole, soprattutto perché non è che si trovi in tantissimi posti, oppure in polvere come la curcuma. Si possono, dipende da che uso ne vogliamo fare. Quindi all'incirca 5 grammi di zenzero fresco e un cucchiaino di zenzero in polvere possono essere usati o aggiunti al cibo o nelle tisane o nelle centrifughe, in qualsiasi, non lo so, spremuto d'arancia, come antidolorifico. Quindi, al momento in cui si soffre di vari tipi di dolori, per esempio un dolore muscolare, o per esempio un torcicollo, o per esempio un mal di testa, anche usando lo zenzero si alleviano perlomeno questi dolori? Sì, sì. Ha un effetto diverso rispetto a prendere una pasticca, nel senso che ci sono miglioramenti nel dolore, nel gonfione, nella rigidità mattutina, mangiandolo quotidianamente. Prendendolo lì per lì allevia un pochino il dolore, ma ha un effetto un pochino più diciamo ritardato rispetto a un dolore per una fase acuta, quindi un mal di testa, un torcicollo. Però se uno non vuole prendere le medicine, può usarlo insieme a, non lo so, una pomata d'arnica, un cuscino caldo, e quindi tutto fa per alleviare il dolore senza intossicarsi dalle medicine. Allora, un tempo girava il proverbio della mela al giorno che toglie il medico di torno. In questo caso, per togliersi i dolori di torno, più o meno quello che mi pare di aver capito è che lo zenzero va consumato regolarmente. Andrebbe consumato regolarmente, come la curcuma. Quindi sì, si possono anche fare delle pasticche homemade, delle capsule, se uno avesse voglia. Si comprano le capsule, quelle vuote, in farmacia barra erboristeria. Si fa queste capsuline mischiando la curcuma e lo zenzero, oppure separate di curcuma e zenzero, e le assume. Assunto quotidianamente un pochino, quindi un cucchiaino di zenzero, aiuta a avere dei benefici sia antidolorifici che antinfluenzali, e quindi a avere una vita migliore, soprattutto in queste stagioni in cui magari freddo, l'umido, buino, ci si alza un po' incriccati, così. Incredibile! Quindi, semplicemente consumando regolarmente tanto curcuma quanto zenzero, ci togliamo di torno una serie di piccoli malesseri che in un essere umano medio, in questa società, con quest'aria avvelenata e con il cibo zeppo di farmaci e le piante e le verdure di fitofarmaci, questo tipo di sostanze sono un coadiuvante per avere una giornata più serena e meno costellata di dolori e doloretti. Esatto, esatto. Volendo, uno, visto che comunque la stagione è ancora abbastanza fredda e quindi la tisana calda è piacevole, può partire di anticipo e farsi una bella tisana con una radice di zenzero, 5-6 cm, tagliata e lavata a pezzettini. Si aggiunge a un litro d'acqua e si fa bollire a fuoco basso per 45 minuti, un'ora. Voi avrete poi un litro di tisana e al momento potete bere bella calduccina, il restante ve lo potete scaldare tranquillamente in microonde o bere fredda. È un altro modo per assumere lo zenzero se magari non vi piace aggiungerlo ai piatti, alle zuppe, agli stufati, perché comunque il sapore un pochino piccantino magari non piace a tutti, ecco. Allora, le proprietà benefiche dello zenzero funzionerebbero anche se lo zenzero lo si aggiungesse, che ne so, al ragù. Se uno vuole, potrebbe, magari non al ragù di carne, però se uno fa un piatto un po' più orientaleggiante, tipo un ragù di lenticchie, ce lo può aggiungere. Però sì, nel senso che volendo, ma non so, mezzo cucchiaino a una vellutata che non cambia tanto il sapore, oppure nelle verdure al posto dell'aglio. Quindi al posto di fare il soffritto con la cipolla e l'aglio, uno ci aggiunge un pezzettino di zenzero. Ha più o meno lo stesso sapore, un pochino piccantino, però si può aggiungere tranquillamente a qualsiasi cibo, a discrezione e gusto vostro, ecco, quello sicuramente sì. C'ho un amico che si diverte a fare il cuoco gourmet, però a casa sua, non è che c'è il ristorante con le stelle Michelin. E lui mi ha suggerito, tra l'altro di recente, una ricetta, e cioè sostituire nell'aglio, olio e peperoncino l'aglio con lo zenzero. Secondo lui il sapore che ne viene fuori è così particolare che è piacevole. Anche questa ricetta, cucinata con lo zenzero al posto dell'aglio, funzionerebbe, o comunque avrebbe dei risvolti positivi per chi consuma questi cibi? Certo, assolutamente sì, perché comunque sia la spezia viene ingerita e insieme al peperoncino, che comunque è benefico anche il peperoncino per il nostro corpo, molto meglio del pepe, riuscirebbe a fare un effetto positivo per assumere la dose quotidiana di zenzero, che aiuta a farci stare bene. E tra l'altro l'aglio, olio e peperoncino potrebbe essere buonissima nella versione zenzero, la proverò. Pensate. E Elisa, mi ha colpito una cosa che hai detto prima, e cioè che si va in farmacia, si va in erboristeria e vendono delle capsule vuote. E se io vado, non lo so, in farmacia a chiedere delle capsule vuote, probabilmente il farmacista mi dice: torna a casa drogato! Esattamente, come sono fatte, come funzionano? Sono delle confezioni praticamente come, non lo so, come potrebbero essere le confezioni dei barattoli, no? Non lo so se già avete presente i barattoli con dentro le capsule dei prodotti da banco, tipo di qualche marca che fa integratori. Proprio sono quelle delle pillole. Sì, sì, esatto. Sono vuote, uno le apre come le aprireste le capsule normali, se dovete rovesciare il contenuto. Noi amanti degli animali è una pratica che facciamo molto comunemente quando dobbiamo dare la terapia, perché tanto la capsula non la mangiano, quindi si svuota il contenuto. Ci vuole un po' di manualità. Piano piano le riempite e le richiudete con la spezia che volete assumere, e le ritenete in questo barattolo e piano piano le assumete, ma si trovano facilmente, ecco, non soprattutto per nelle erboristerie, magari perché è più facile che loro facciano preparati ad hoc per chi va a richiederglieli. Magari le farmacie devono essere anche farmacie che hanno prodotti o omeopatici o di parafarmacia o erboristeria, però si trovano. Elisa, un'altra domanda sullo zenzero. In Giappone, perlomeno ho visto un film, insomma, non è che sono andato in Giappone, lì parlo giapponese, ho visto un film, e in questo film prendevano regolarmente tè di zenzero o infuso di zenzero, o ignoro cosa bevano i giapponesi o cosa c'abbiano in quelle teiere, e un personaggio di questo film sosteneva che consumare troppo zenzero gli dava problemi di memoria. Ora non so, che magari prendeva lo zenzero ma pure si fumava dei grossi cannoni, ma hai notizia di questa cosa qua? Ora, che faccia perdere la memoria? No, magari assunto troppo, in troppe quantità, potrebbe essere tossico al corpo. Però non, ad oggi non se ne hanno notizie, però io mi immagino che assunto in troppe quantità forse agisca su altri organi piuttosto che sulla memoria. Non ne ho idea, non l'ho mai letto di assunzione di zenzero che possa inficiare al ricordo, sinceramente. Magari era un po' in là con l'età questa persona, iniziava sì, a qualche era un film, torna a ripetere, era un film, sì, magari sì. Era finto ogni cosa e all'autore gli serviva una gag per spiegare che il personaggio non si ricordava le cose, sì, però era una persona anziana, sì, decisamente. Magari aveva l'accenno di qualche altra cosa, piuttosto che dare la però come tutte le persone anziane preferiscono dare la colpa a altro piuttosto che ammettere che stanno invecchiando. Va bene, sì, c'è anche questo, decisamente c'è anche questo. Adesso sono curiosissimo di provare lo zenzero, di provarlo in maniera regolare, e in particolare sono curiosissimo di questa cosa della farmacia, si fa le pillole. È un'idea spettacolare, mi farà sentire un piccolo farmacista o un piccolo dottore, pensa te. Elisa, grazie delle informazioni, grazie dei tuoi consigli, grazie delle nuove idee che ci hai dato anche oggi. Grazie a te, Giorgio, soprattutto per la ricetta dell'aglio, zenzero e peperoncino, anzi no, via, dello zenzero e peperoncino, spaghetti, zenzero e peperoncino, che vorrò provare sicuramente, e poi la prossima settimana ti dirò come sono venuti. Allora, mentre Elisa prova gli spaghetti, io cercherò di provare un paio di pillole per vedere l'effetto che fanno. Oh, hai visto mai che magari mi faccio un viaggio? Grazie Elisa, grazie agli ascoltatori di Radio Big World, e ci auguriamo di sentire presto da Elisa qualche nuova idea, qualche nuovo consiglio, qualche nuova soluzione che sia un po' meno dannosa delle soluzioni barbare in senso antropologico che ci vengono proposte dai media e, diciamo così, dagli spacciatori ufficiali. Un amico mio una volta disse: ricordati, parlava di droghe, ricordati che il dottore ce l'ha meglio di quelli in piazza. Grazie. È vero. Buona giornata e alla prossima puntata.